Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Proseguono gli sbarchi di clandestini dalla Libia. Non è ora di riportarli con i ponti aerei in territorio libico anziché in Sicilia? Magari usando gli aerei che hanno portato Andreotti and Company oggi a baciare le mani di Gheddafi? Mi sembra che la Lega Nord sia anche troppo morbida e titubante di fronte a questi problemi. Forse hanno paura di essere tacciati di razzismo. Io penso che qualsiasi scelta venga presa, verranno comunque tacciati di razzismo, per cui tanto vale agire in maniera decisa. Tutti i giorni vengono arrestati extracomunitari per spaccio di droga o altro. Basta guardare le notizie che compaiono tutti i giorni sui quotidiani locali. Prima vengono condannati e poi rimessi in libertà. Anche qui mi domando perché, se un cittadino che lascia metà dello stipendio come me nelle casse dello Stato, deve sempre pagare per i suoi errori e altre persone che delinquono giornalmente e non contribuiscono per niente al mantenimento dello Stato e quindi nemmeno allo stipendio dei giudici, vengono rimessi in libertà e non pagano per le loro malefatte. Perché non vengono riaccompagnati alla frontiera? Non pensate che siano queste cose a far aumentare una certa intolleranza in Italia? Io personalmente non ne posso più di vedere i giudici considerare i cittadini normali, quelli di serie B. Altro che Lodo Alfano. Gigi. Vivo qui da 8 anni. In una bella città alla periferia di Milano e penso che in questi ultimi anni, veramente, si stia un po' esagerando. Io non vedo tutta questa paura che si starebbe creando a sentire i signori della Lega. Io vengo da un paese dove la migrazione esiste da 500 anni, da quando arrivò Cristoforo Colombo. Io capisco la gelosia che hanno per la loro terra, ma possiamo ricordare che a Milano, già un bel po' di tempo fa, non erano tolleranti con gli stessi italiani del sud. Il problema è che non c'è bisogno di fare nuove regole, perché quelle che ci sono vanno bene. Ivan. Vorrei portare alla vostra attenzione una notizia apparsa sui quotidiani. Ad Alessandria, il proprietario di un bar, forse esasperato dall'ennesimo episodio, o forse no, è uscito e ha sparato a un uomo che urinava contro il suo locale, uccidendolo. La notizia ha avuto probabilmente l'eco che meritava, cioè un imbecille che ha perso la Trebisonda. È solamente una notizia come altre. Ma mi chiedo cosa sarebbe successo se la persona uccisa fosse stata una persona di colore, oppure un extracomunitario. Titoloni sui quotidiani, con allarmi sul razzismo degli italiani, soprattutto da parte della stampa di sinistra. Ma mi chiedo se, a questo punto, non siano gli italiani le persone discriminate. In Italia, si sa, basta essere un diverso per avere più evidenza sui media. Le persone normali non fanno notizia, e quindi restano le ultime ruote del carro. Le stesse che fanno la fila per pagare le tasse o tutto ciò che va pagato, compresa la tassa della TV, che vivono magari con la pensione minima. E poi trovo che una persona arrivata in Italia da 2, 3 o 4 anni non possa in un colpo acquisire i diritti che abbiamo noi abitanti da sempre di questo paese. O forse che i nostri genitori, che magari hanno fatto o subito la guerra, la fame, e hanno lavorato sabati e domeniche per realizzare quello che abbiamo, oppure i nostri nonni, che magari sono anche morti combattendo per la patria, hanno gli stessi diritti, o meno addirittura, di uno straniero che pur lavorando e pagando le tasse è da noi solamente da poco tempo. Anche loro avranno fatto tutto ciò, ma per la loro patria. Noi ora stiamo perdendo la nostra storia, le tradizioni e tutto quello che noi siamo stati in cambio di un buonismo sterile. Capisco che bisogna aiutare i più deboli. Ma anche San Martino ha donato solo metà del suo mantello, non tutto. Giuseppe. Mi domando dove vogliamo arrivare con questa tolleranza zero, che chiaramente vale solo per i più deboli e per i cittadini comuni, mentre chi decide si mette al sicuro con l'immunità. Alessandro, Firenze. Scusate, ma se un rapinatore finisce ferito in ospedale, l'ospedale lo segnala alla polizia. Non capisco perché, se un clandestino commette un reato, non possa essere denunciato. Marcello. Se si è introdotto il reato di clandestinità, credo che sia normalissimo per un dottore, dopo una cura, se rileva che il soggetto sia irregolare, avvisare le autorità competenti. Oltretutto, credo di aver letto da qualche parte che se qualcuno viene curato per ferite da arma da fuoco, il dottore curante deve avvisare le forze dell'ordine. Penso sia giustissimo. Una cosa però non mi torna. A differenza di una ferita da arma da fuoco, che è evidente, Come è possibile per un dottore sapere se un soggetto è clandestino oppure no? Deve investigare tipo poliziotto? Come fa a sapere che un eventuale permesso di soggiorno sia falso o falsificato? Roberto Lecco. In tema di immigrazione, vorrei chiedere agli esponenti del governo che fine hanno fatto le 650.000 richieste del decreto flussi 2007. Dalle informazioni che si possono raccogliere, sembra tutto ancora bloccato. Pare che siano stati dati qualche decina di migliaia di permessi e si stia preparando la nuova lotteria di fine anno del decreto flussi 2008, sempre sui 170-180.000 posti. Nel frattempo sappiamo tutti quanti che non tutte le 650.000 persone che hanno fatto richiesta, ma sicuramente 200-300.000, stanno ogni giorno lavorando per i nostri anziani e i nostri bambini. E ora sappiamo che se per caso dovessero avere la sfortuna di andare al pronto soccorso, si ritroverebbero in breve tempo fuori dall'Italia. Siamo sicuri che gli italiani abbiano bisogno di tutto questo? Alessandro. Vi allego una lettera aperta per il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Onorevole Maroni, condivido pienamente il suo discorso in merito al permesso di soggiorno a punti, che accentua ancora di più lo stato di cittadini di serie B come me, i quali, a differenza sua, partono con un elevato numero di punti per una serie di motivi che tutti conosciamo. Lei, in quanto ministro, non ha mai detto una cosa civile e conveniente per l'interesse nazionale, cioè che chiunque lavori e abiti stabilmente in Italia dovrebbe essere sempre più portato a sentirsi integrato, di conseguenza avere uguali doveri e soprattutto diritti. Tutto ciò che lei ha detto nella sua vita politica non è di buon esempio. Anzi, è discriminatorio nei confronti dei 3 milioni di non italiani che portano enormi vantaggi al paese che li ospita. E mi basta ricordarle le nascite e i lavori umili e sottopagati. Nei confronti dei delinquenti esiste il diritto penale, che, se ben applicato, dovrebbe essere la soluzione. Capisco che per allontanare il pensiero degli italiani dai problemi veri voi dovete inventare tante cose. E mi congratulo per la fantasia, ma le ricordo che il vero problema non sono i clienti delle prostitute, che la soluzione non è il permesso di soggiorno a punti o le impronte digitali per i bambini rom. La soluzione sarebbe la dimissione di un ministro incapace che ha ottenuto i voti sulla faccia dei pochi non italiani che delinquono, facendo credere ai suoi elettori che il problema del paese è il bambino rom che ruba per mangiare o che fa il lavavetri per sopravvivere. Io, in quanto extracomunitario, mi sento offeso e ritengo immorale tutto ciò che lei decide per il paese civile che si definisce Italia. Con la speranza che lei, nello svolgere il suo compito di ministro dell'Interno, non pensi soltanto alla sua parte politica di provenienza, ma soprattutto al bene del paese di cui è responsabile, colgo l'occasione per porgerle i miei più cordiali saluti. Tonin. Vorrei commentare la proposta leghista del permesso di soggiorno a punti per gli extracomunitari. A me pare un'ottima intuizione. Noi italiani non subiamo forse la patente a punti? Che peraltro si sta rivelando sempre più iniqua perché nella maggior parte dei casi fa pagare agli automobilisti le inefficienze del sistema viario italiano, il mancato dirottamento delle merci su binario, l'inutilizzo delle autostrade del mare, l'inefficienza dei trasporti pubblici, eccetera. Io personalmente percorro 100.000 chilometri all'anno e per ben 3 volte sono arrivato a 0 punti. Per ben 3 volte ho recuperato 6 punti frequentando corsi di recupero alla modica somma di 250 euro. Il tutto alle 10 di sera, quando me ne sarei andato ben volentieri a casa a guardare la televisione. Ho smesso di fare pause pranzo per evitare di bere un bicchiere di vino e rinunciare ad altri punti. Quindi cosa c'è di strano se un extracomunitario ospite nel nostro paese dimostra coi punti di meritare la nostra ospitalità, di avere una vera volontà di integrazione alle nostre regole sociali? Quanto alla sicurezza, vorrei dire, io abito in un borgo di villette e appartamenti alla periferia di Alba, in provincia di Cuneo. Posso confermare che ad una riunione del borgo è emerso che il 100% delle case e degli appartamenti è stato visitato dai soliti ignoti, anche se non necessariamente extracomunitari. Che cosa dobbiamo aspettare? Giacomo. Chi ci può guadagnare, e molto bene, da questa crisi internazionale? Forse chi è legato fortemente all'economia tradizionale e produttiva? Chi può trarre vantaggio da un impoverimento globale? Chi può conquistare il gradimento dell'opinione pubblica mondiale? Per qualcuno che piange, c'è qualcuno che ride e loro di riso se ne intendono. Tanto più che è tipico della loro filosofia stare seduti sul letto del fiume, aspettando il cadavere del loro nemico. Non credo che dormiremo più sonni tranquilli, con il sogno americano diventato un incubo. Non credo potremo, per varie ragioni, vivere agli standard della grande bolla. In fin dei conti, al crollo del capitalismo corrisponde la vittoria della ridistribuzione della ricchezza e, aggiungo, sempre tra ricconi. Ma è così che va il mondo. Vuoi vedere che il comunismo si è preso la grande rivincita? Fabio. Egregio direttore, mi permetta una domanda ingenua. Nei momenti di grandi difficoltà nella vita si dice calma e bocce ferme. Mi sembra che le autorità borsistiche applichino, in un certo senso, questo motto, sospendendo dalle contrattazioni titoli che vanno troppo su o, ahimè, troppo giù. Perché in un momento così grave di crisi finanziaria mondiale, borse tutte giù, non si segue lo stesso principio, sospendendo tutte le contrattazioni di tutti i titoli per un po' di tempo? Voglio dire, perché non si chiudono tutte le borse di tutti i continenti, per esempio, per un mese intero? Nello. PS, forse perché in questo modo verrebbero pregiudicati gli affari degli speculatori? Caro direttore, nell'arco della vita professionale di un giornalista, giungere alla direzione dell'emittente di informazione più autorevole del paese è certamente un grandissimo risultato. Per lei, da 30 anni preso tra vice direzioni, vicariati, insegnamento e collaborazioni, non è solo questo. Aggiungere la responsabilità di una radio è invece una grande prova di forza e un altro valico superato alla ricerca del filo di Arianna. Per questa nuova sfida accettata, le rivolgo l'augurio di mantenere integra la passione che l'ha sempre animata. Buon lavoro, Edoardo, Roma. Caro Edoardo, ho scelto la sua lettera tra le tante che mi sono arrivate con gli auguri per questo mio nuovo impegno. Vorrei ringraziare tutti e cercherò di farlo giorno per giorno. Lo farò tra poco nel mio editoriale, nel GR delle 7 e poi ancora alle 8:30, quando inizierà la mia nuova rubrica Dietro la notizia. Non perdiamoci di vista. In realtà sono oltre 40 anni che il giornalismo è il mio pane quotidiano, dato che ho iniziato a scrivere sui giornali quando avevo più o meno 20 anni. Ma qualcosa dovevo averla già nel sangue. Mi ricordo che nei primi anni del liceo aspettavo con ansia mio padre che tornava a casa dal lavoro, ma lo aspettavo con ansia perché mi portava il Corriere della Sera. E proprio al liceo ci fu forse la svolta. Venni bocciato in italiano da un professore burbero e rigoroso. Gliela farò vedere io, mi sono detto, e anche da lì è nata la mia passione per il giornalismo. La passione, ha ragione caro Edoardo e cari ascoltatori, mi ha sempre animato ed è forse inevitabile che arrivassi qui, a Radio 24, dove la passione si sente. E farò di tutto perché si continui a vivere e a sentire. Grazie da Gianfranco Fabi. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.